La versione di Oscar Giannino. This is the end. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, eccoci, riprendere gli appuntamenti quotidiani al pomeriggio alle 16.30 col palinsesto autunno-inverno di Radio 24, anche con la versione di Oscar, quindi tutti i pomeriggi. Grazie per l'ascolto, grazie anche per chi ha scritto per darmi una mano per il rinnovo del contratto. Sapete che stamattina abbiamo ricominciato anche con Alessandro Milatti in Antenna 2 e sabato ricomincerà anche con Tira Birba dalle 10 alle 12. Andiamo subito però all'argomento della trasmissione e vi invito a telefonarci, capito di che cosa si tratta, molto semplice. La puntata è dedicata a capire con due giornalisti che seguono da vicino la vicenda l'impatto possibile, il significato, se una svolta o meno, delle elezioni che si sono tenute ieri, molti di voi sicuramente lo sapranno, in Mecklenburg-Pomerania, quindi in un land tedesco dell'est, con il successo di Alternative for Deutschland, la formazione che da destra rispetto ai toni anti-euro e contro la cooperazione economica a vantaggio dei paesi deboli dell'euro come l'Italia, la Spagna e così via, ha virato più decisamente sui toni della campagna contro i profughi e i migranti, contro il ce la faremo della Merkel che nell'estate 2015 annunciò le porte aperte al diritto di asilo con 1 milione di arrivi, e in base a questo in Mecklenburg-Pomerania il successo di Alternative for Deutschland è stato clamoroso. È stato clamoroso. La CDU, il partito della Merkel, è solo terzo. E vi ricordo come i giornali italiani, prima di presentarvi gli ospiti, hanno oggi presentato questo voto, tutti più o meno con toni diversi, leggendovi una svolta che potrebbe avere conseguenze molto pesanti non solo per la Germania e la possibilità di una ricandidatura della Merkel nel 2017 alle elezioni politiche per la Premiership in Germania, ma come una svolta europea da collegare a quello che avviene in Francia con la Le Pen per le presidenziali, quello che avviene in molti paesi centroeuropei con i partiti nazionalisti e sciovinisti sempre più forti, pensate all'Austria, a quello che è avvenuto pochi mesi fa, e con conseguenze quindi per l'intero asse di un'Unione Europea che, lo sapete, è in difficoltà fortissima sulle politiche economiche, sulla deflazione che non molla, sul fatto che chiude la BCE da sola non ce la fa, sul fatto che continuiamo a chiedere più flessibilità e i membri della Commissione della Germania dicono veramente ve ne abbiamo data già tanta. Ci sono tante difficoltà, ma questo riguarda il cuore del problema, cioè la politica su cui la Merkel, aprendo le porte, ha voluto dare un segno evidente del fatto che l'Europa non demorde sui principi. Da quell'apertura nacque poi l'accordo che ha dato alcuni miliardi alla Turchia per chiudere il corridoio centroeuropeo che aveva in pochi mesi, nell'autunno del 2015, fatto saltare ogni cooperazione europea con tanti muri eretti alle frontiere. Di fatto quel corridoio si è fermato, si è riaperto quello mediterraneo che riguarda invece l'Italia. Ecco, diteci come avete capito voi intanto questa sconfitta della Merkel in Mecklenburg-Pomerania, se la considerate una svolta, è solo l'inizio, riguarda anche noi oppure no, insomma diteci come la pensate. 800240024 per telefonare. Ricordo solo i titoli e poi andiamo immediatamente agli ospiti per darci la loro lettura di quello che sta avvenendo. Il Corriere della Sera è tra tutti i quotidiani stamattina quello che ha dato una lettura tutto sommato più contenuta, perché in prima il titolo era Merkel battuta e solo terza, l'estrema destra firma il sorpasso, e poi all'interno il pezzo di Danilo Taino titolava si aprono i giochi 2017, sfida 2 con la Petre, che è la leader 41enne di Alternative for Deutschland, per conquistare i delusi. E il titolo d'apertura della Stampa, quindi più rilievo, era balzo dei populisti, colpo alla Merkel, la cancelliera paga la scelta dell'accoglienza, l'Unione Europea al G20, il mondo ci aiuti sui migranti perché siamo al limite della tenuta. Per Repubblica il titolo in prima era Germania shock in Mecklenburgo, l'ultradestra vola, sorpassata Merkel, e i servizi erano a pagina 2-3, leggo solo un titolo, rotto il baluardo tedesco, ora la valanga populista minaccia la vecchia Europa. Quindi Repubblica è assolutamente dell'idea che le conseguenze siano importanti e pesanti per l'intera Unione Europea. Il Giornale, che è sempre stato molto critico verso le posizioni tedesche, non solo sull'immigrazione, titola in prima: avviso di sfratto per la Merkel, ha annoiato perfino i tedeschi. Ecco, andiamo intanto alla prima dei nostri ospiti, che è Tonia Mastrobuoni, corrispondente della Stampa da Berlino, che firmava appunto i servizi stamattina corrispondente di Repubblica, perdonate, non della Stampa come vi avete detto voi, ma comunque detto tutto questo, che firmava appunto i servizi per Repubblica sulla sconfitta della Merkel. Buon pomeriggio e grazie di essere con noi, Tonia. Ciao, buon pomeriggio. Allora, posso chiederti intanto, la sorpresa dei giornali italiani, per chi seguiva però i sondaggi, era una non sorpresa, perché nei sondaggi era chiaro da settimane quello che stava avvenendo, o no? Sì, ma in realtà io non amo citarmi, però insomma noi una settimana fa abbiamo intervistato Frauke Petri proprio su Repubblica e già all'epoca si diceva che addirittura l'AfD potesse diventare il primo partito in questa regione. Una regione dove i numeri ci dicono che apparentemente un risultato del genere è piuttosto sconvolgente, perché in base alla redistribuzione delle quote dei profughi in Mecklenburgo se ne becca solo il 2%, insomma è qualche migliaio di profughi, niente di assolutamente allarmante, e in generale in Mecklenburgo vivono solo il 2% gli stranieri, insomma, rispetto al resto della popolazione. Quindi è stata una campagna elettorale, secondo me, che ha coinciso più con un altro anniversario, appunto quello di un anno da "ce la faremo", da questa frase di Merkel, che invece sembra spaventare ormai la maggior parte dei tedeschi, perché insomma, o molti tedeschi non pensano che questa sfida sia difficile e che sia stata presa un po' alla leggera dalla cancelliera. Sappiamo anche che lei sta facendo una battaglia contro una parte del suo stesso partito per mantenere questo impegno di non nominare un tetto ai profughi, no? Cioè di non introdurre un limite ai profughi. Stamattina poi, dicono le agenzie che stamattina dalla Cina, dal G20, ha tenuto una consultazione straordinaria dai membri della CDU su questo tema. Esatto. Se ne e sa questo qualcosa. È il segnale, questo è il vero segnale che in realtà sbaglia, secondo me, anche sui giornali italiani, chi sottovaluta questa elezione. Non solo perché appunto è un'elezione in cui la destra può dire stiamo diventando una Volkspartei, e questo qui è un grande tema, cioè arrivare secondi per un Volkspartei, partito come spieghiamo ai nostri ascoltatori, cioè un grande partito di massa popolare. Ecco. Esatto. Finora la scena politica tedesca è sempre stata dominata da due Volksparteien, appunto i Cristiano Democratici, CDU, CSU e la SPD. No, questo è stato, diciamo, tutto il secondo, il dopoguerra è stato caratterizzato dalla dominanza di uno dei due partiti, alleato poi con un altro partito per fare governi, spesso e volentieri l'ago della bilancia dei liberali. Insomma, tutto questo è cambiato negli ultimi anni e soprattutto si è avverata la maledizione di Franz Josef Strauß, che era questo storico governatore della Baviera e anche insomma capo della CSU, quindi dell'alleato bavarese, della CDU ultraconservatore. Lui aveva sempre detto non bisogna scongiurare che qualsiasi cosa nasca a destra del nostro partito. Questo comandamento per la prima volta sembra rotto. Perché appunto è questo un po' l'incanto spezzato di questa tornata elettorale. Cioè, secondo me è un po' metonimica anche se Mecklenburg è una regione, ripeto, piccolissima, però non è una tendenza che cogliamo solo adesso, no? Anche in primavera abbiamo visto che in Sassonia-Anhalt la AfD ha preso addirittura il 25%. Ormai ha sfondato anche in regioni dell'est, in Baden-Württemberg, la ricchissima regione, la Svevia, il Autoland, come la chiamano, cioè dove ci sono appunto il quartiere generale della Daimler, eccetera. Anche in questa regione è arrivata al 15%, cioè ormai è sdoganato come partito a destra della CDU e come partito che può e che vuole adesso guardare anche a Berlino, vuole guardare anche alle elezioni politiche dell'anno prossimo. Io credo che ormai sia scontato, visto che il tema dei profughi continua comunque a colpire i tedeschi e a regalare voti alla AfD senza neanche che si sforzi troppo, io credo che l'anno prossimo sia scontato l'ingresso di questo partito nel Bundestag, non naturalmente con le percentuali che sta incassando nelle regioni dell'est, dove c'è qualche problema di più anche sociale, economico, eccetera, no? Oggi ho parlato con un politologo che mi ha detto una cosa molto intelligente, cioè l'AfD è in una crisi di identità, perché Oscar, tu ricorderai che era nato un po' come una sorta di Tea Party tedesco. Sì, cioè, sì. Era un, esatto, tu lo sai bene. Un partito, cioè, giornalisti, economisti che mai, esatto, avrebbero preso questi voti, imprenditori, c'era Olaf Henk, esatto, ex presidente della Confederazione tedesca, che erano tutti impiantati sul rigore, l'euro, esatto, no agli aiuti ai latini che sprecano e così via, tutta un'altra cosa, per così dire. Naturalmente non avrebbero mai preso questi voti. La domanda che ci fanno molti ascoltatori è quella di essere aiutati a capire. Molti dicono, quando dite ultradestra per Alternative for Deutschland, intendete una cosa che è in qualche modo credibilmente o verosimilmente assimilabile a una formazione che fa anche indirettamente eco a toni neonazisti, oppure no? Tu come rispondi? Allora, ci sono degli scandali che riguardano questo partito e che rivelano il fatto che ci sono degli elementi di estrema destra dentro la AfD. Tant'è vero che l'anno scorso Bernd Lucke, il fondatore di questo partito, che era nato come partito anti-euro, se n'è andato proprio perché era spaventato da un'ultradestra che nel partito stava diventando più forte. Franke Petri ha preso allora le redini in mano, sì, del partito, che sembrava quasi morto, e invece che sul tema dei profughi è rinato, è stato rilanciato alla grande. Quindi ci sono questi, e anche adesso in Mecklenburgo è chiaro dall'analisi dei flussi che gli ex neonazisti che votavano NPD sono anche adesso votano AfD, però non bisogna sottovalutare l'entità di questo voto, cioè un voto appunto in cui confluiscono tante anime, e oggi perché in realtà dai flussi dei giornali tedeschi si capisce che poi questo risultato eclatante che hanno avuto l'hanno preso i voti non solo dalla CDU, hanno preso, esatto, voti un po' da tutti. Soprattutto somiglia un po' alle destre, anche alla destra nostra, alla Lega nostra, insomma, negli anni 90, cioè adesso sta cominciando a diventare un voto operaio. Tanto è vero che quello che ti dicevo, che cercavo di dire prima, cioè è in crisi di identità la AfD, perché da partito ultraliberale e un po' elitario, adesso è un po' in crisi perché Gauland, giustamente, che è un leader della AfD, il vice, dice dobbiamo diventare il partito dell'uomo della strada, quindi loro stanno aspirando anche a prendersi una parte di quel voto invece popolare e, voglio dire, più moderato, che è spaventato dai profughi, appunto, da questa propaganda molto forte. Che tradotto significa, invece di spendere miliardi per i profughi e per gli immigrati, li spendiamo per i tedeschi che hanno meno reddito, così. Esatto, il problema è che questo slogan che tu hai appena detto lo ha detto ieri il segretario della SPD, cioè anche la SPD adesso sta sostanzialmente attaccando da destra Angela Merkel, questa è un'altra cosa interessante, perché dice basta dare soldi solo alle banche e ai profughi, bisogna darli anche ai tedeschi. E, insomma, Merkel sembra sempre più sola anche in questo. Comunque, tornando al carattere di questo partito, è un partito ancora un po', come dire, aperto a sviluppi? In fieri, sì, però che sta sicuramente si sta trasformando, sta raccogliendo molto voto popolare, quindi non solo un voto di estrema destra, però diciamo questi scandali che ogni tanto emergono ci segnalano che ci sono membri esponenti della AfD ancora molto discutibili, insomma, appunto antisemiti che provengono dall'estrema destra, alcuni di questi entreranno adesso in Parlamento del Mecklenburgo, c'è uno, un ex neonazista dichiarato, insomma, quindi questi elementi qua ci sono, però ripeto, attenzione a fare tutta la faccia, sì, e a interpretare in modo superficiale questo partito, che è un partito che sta crescendo velocemente, che sta raccogliendo molto voto di protesta, ma anche molto voto popolare. Quindi bisogna vedere la leadership, in altre parole, quali elementi di rotondità e asperità invece darà al programma, nella speranza di beccare il maggior percentuale, a doppia cifra, di voto alle elezioni politiche dell'anno prossimo, se capisco bene. Esatto. Iniziamo a sentire rapidamente come l'impressione di alcuni nostri ascoltatori. Cominciamo da Riccardo da Catania. Riccardo, prego. Buonasera, grazie per prego, la partecipazione. Guardi, io porrei però l'accento su un fatto che in effetti questa elezione riguarda un land piccolissimo, sì, della ex Germania Est, dove diciamo le frange estreme hanno sempre avuto un maggior successo, quindi diciamo da questo a parlare di, io insomma la Germania conosco abbastanza perché mia figlia quindi lavora, cioè, chi votava di Linke prima può votare Alternative for Deutschland oggi? Ma io non credo che si possa intendere come un voto assolutamente, insomma è, diciamo è espressione di un partito e di una località molto ristretta. Non è ancora convinto che questo possa essere un rischio per la maggioranza del voto tedesco. È l'ex Germania Est, dai. Però i Länder che citava Tony Mastrobuoni prima erano anche cuore industriale della Germania e le percentuali comunque erano doppia cifra. Vedremo. Comunque l'opinione di Riccardo è attenti a non sopravvalutarli. L'opinione di Giuliano da Roma qual è? L'opinione è che l'analisi economica di Alternative for Deutschland sia inerentemente molto valida. Cioè questa spesa enorme a carico del governo per cercare di inserire profughi che nei altri paesi più vicini come Libano, la Giordania vengono gestiti dall'esercito in campi organizzati come peraltro i nostri terremotati del Lazio e dell'Abruzzo, e sia un peso tale per l'economia. Infatti si è visto, c'è stato un grande calo dell'occupazione, non c'è nessun assorbimento degli immigrati dal milione della Merkel. Quindi secondo me l'Alternative for Deutschland illustra una condizione che è inerentemente insensata. Cioè in Italia abbiamo preso 1 milione di persone che vengono dalle Filippine, filtrate dai preti, sono arrivate con il lavoro, un tetto sopra la testa, non c'è problema. Questa è l'immigrazione, quella degli italiani che sono all'estero. Prima si trovano lavoro e sono profughi. E quindi Giuliano dice su questa base ci sono le premesse per un grande successo anche elettorale, capisco bene? Nazionale. Stupidata dell'accoglienza della gente diffusa, certo che è un'idiozia, non ce la possiamo permettere. Noi dobbiamo dare assistenza di emergenza ai profughi. Grazie anche a Giuliano, adesso andiamo al traffico e poi torniamo. Vi aspettiamo a Made in Malga, evento nazionale dei formaggi di montagna, Asiago 8-11 settembre. Vi presenta la versione di Oscar. Eccoci tornati in diretta per parlare di questa scossa, sia pure nelle elezioni del Mecklenburg-Pomerania, però con una grande vittoria Alternative for Deutschland, per capire che conseguenze può avere per la Germania, il paese leader dell'Unione Europea, lo sappiamo, e anche per l'Europa. Devo dire, gli sms vostri sono divisi in due, abbastanza in maniera pesata, non statisticamente, sapete che chi interviene non rappresenta un campione, però ci abbiamo alcuni messaggi come quello di Ulisse che dicono la sconfitta dell'America altro che essere un campanello per tutti, perché non dimentichiamoci, l'Europa, l'Unione Europea è circondata da guerre sulle frontiere, Medio Oriente, Daesh, la Libia, il problema dell'Ucraina è risolto eccetera, e la Merkel tutto sommato aveva dato un segnale che riguardava i valori dell'Europa. Se vengono travolti i valori dell'Europa ne va per tutti. Poi certo si può dividere su come, quanti prenderne, i meccanismi dei rimpatri, però era un appello ai valori dell'Europa, e questo è quello che dice Ulisse. Tanti altri invece la pensano come Gianni da Verona, che dice neanche per idea, non è da sorprendersi la quota di elettorato popolare che Alternative for Deutschland si rivela in maniera sempre crescente capace di prendere, perché la gente comune fa i conti, chi sta peggio non capisce, non può capire assolutamente l'apertura indiscriminata, che significa un mucchio di risorse dirottate rispetto ai programmi di welfare nazionali. Questo riguarda l'Italia, dice Gianni, e riguarda d'ora in poi anche la Germania. Tonia, posso chiederti una cosa? Ma la CSU a che punto può arrivare? Cioè, lettura tattica, il modo per la CSU, per gli alleati della CDU e dire comunque non ti puoi ripresentare tu e vogliamo uno dei nostri alla premiership. 1, 2. La SPD può arrivare al punto di dire, di fronte a un dato nazionale che mettesse a rischio la possibilità che i governi sia uno che l'altro, di mettere in discussione la grande coalizione, chiunque sia il candidato, Merkel o non Merkel, con la CDU, CSU? Queste due ipotesi come sono? Fantascienza o hanno realtà? Allora, la minaccia della CSU di presentarsi da sola è secondo me resterà una minaccia, perché sarebbe una scelta suicida. Cioè, parliamoci chiaro, se la CSU si presentasse da sola l'anno prossimo con un proprio candidato, appunto José Hofa, il governatore della Baviera, la CDU difficilmente potrebbe a dicembre appoggiare la candidatura di Merkel, no? Perché a quel punto sarebbe chiaro che Merkel è il problema dell'Unione, quindi della coalizione tra questi due partiti. Però io credo che sia improbabile che la CSU commetta un suicidio del genere. E quanto all'SPD? Sì, perché... Come? Quanto all'SPD invece, la grande coalizione? Allora, adesso ci sono di nuovo rumors sul fatto che, ieri voglio dire, Gabriel Trionfale secondo me ha totalmente sottovalutato invece la un po' l'insicurezza che c'è in generale, anche gli elettori in fuga dalla SPD. Tant'è vero che qui ci sono di nuovo rumors sul fatto che il presidente del Parlamento europeo, Martin Schulz, possa venire a fare lo spizzo in candidato, cioè il candidato al posto di punta della sì, perché Gabriel è molto ammaccato, ha fatto una serie di gaffe ultimamente, continua ad andare a zigzag e a dire tutto il contrario di tutto da un giorno all'altro, insomma è un candidato molto molto debole, tanto però... è vero che mi dicevano che uno dei motivi per cui Merkel è convinta, si è convinta che può ricandidarsi tranquillamente, è il fatto che lei pensa di non avere un rivale vero. Però volevo rispondere un secondo al tuo ascoltatore che poneva un problema vero, cioè quanto sia rappresentativo questo voto. Io ho parlato di una metonimia perché ci credo. Io credo che ormai il Mecklenburgo sia una parasprototo, ma il semplice fatto che si è già votato in altre 8 land in cui la SD si è molto molto rafforzata. E è vero che Mecklenburgo è poco rappresentativo, ci abita solo il 2% della popolazione, però è vero anche che è una regione dell'est tipica dove la gente guadagna meno che nella Germania ovest, dove c'è un tasso di disoccupazione leggermente più alto, una volta e mezzo quello dell'ovest, e dove secondo me ormai la guerra tra poveri, tra virgolette, cioè la guerra dei poveri non è più quella contro le elite, ma è una guerra contro gli esterni. Esatto. Quindi questo è il problema oggi del Tonia, qualcosa che l'Europa ha, posso dire, io non credo che la storia sia andata a ripetersi mai, non è fatta dei cicli vichiani, però nel passato, negli anni 20 e 30, lo sciovinismo fu una delle componenti fondamentali che portò poi dal primo di nuovo al secondo conflitto come due episodi della stessa grande guerra di civiltà europea. Lo sciovinismo delle scene nazionali dopo la prima guerra mondiale fu uno dei tratti dominanti, non dimentichiamocelo. Allora, io intanto ringrazio Tonio Mastrobuoni, c'era giunto Udo Gumpel, che giornalista e corrispondente dell'Italia per la rete televisiva tedesca NTV, e gli chiedo, Udo, di quello che hai visto sui giornali italiani, che cos'è che ti ha colpito di più, che secondo te ha colto male o peggio il significato di questo, che comunque è un voto pesante, comunque la si voglia prendere. Intanto grazie di essere con noi, Udo. Grazie a voi. No, certo che è un voto pesante, che è anche pesante per Angela Merkel come persona, perché come probabilmente la brava collega Mastrogoni ha già raccontato, che la isola Rügen è anche il collegio elettorale della Merkel, dove addirittura è andato ancora più forte l'AfD. No, è un voto pesante, però è da analizzare molto bene, e voi ne avete già dati molti elementi. Io direi, io cercherei di captare solo un messaggio: non è adesso un tracollo della Merkel, come naturalmente leggo molti titoloni in Italia compiacenti, perché è quello che desiderano da 16 anni naturalmente. E se un partito perde dal 23 al 19% non si chiama tracollo, ai tempi di Craxi si chiamava tenuta sostanziale, no? Mettiamo, questo però è solo una piccola nota, in realtà il messaggio politico è molto forte. Il messaggio è che questo partito viaggerà intorno al 10-15% a livello nazionale, e anche in regioni molto benestanti come la Baden-Württemberg, che sono regioni senza effettiva disoccupazione, viaggia oltre il 10%. Dunque c'è un voto di protesta, ma non è il voto della lotta tra poveri. È più difficile, più sottile da analizzare, perché le persone sono... L'elettorato tipico dell'AfD si capisce bene, è maschio, intorno a 60 anni, con un grado scolastico e di scolarizzazione inferiore, largamente inferiore alla media, e distratti una volta classici della classe operaia o ex disoccupato, perché i veri disoccupati sono rimasti in pochi. E queste persone hanno l'idea di essere esclusi o di avere meno benefit degli altri. Dunque è una questione di invidia sociale, e sono persone che si sentono esclusi da questa grande benestante Germania, ed è un 10-15% che tranquillamente si identifica con una protesta sui generi contro tutti i partiti. Perché voi dovete sempre in Italia considerare che i partiti che sostengono in misura diversa, alcuni criticano che è troppo dura la Merkel, altri troppo dolce, che comunque che sostengono la politica di accoglienza dei migranti in una o l'altra misura, sono tutti gli altri partiti. Non esiste un partito, anche la CSU quando critica la Merkel dice sì, accogliamo ma in minore misura, e però noi come Baviera abbiamo fatto l'accoglienza migliore. Insomma, non è che adesso anche la CSU bavarese mette in dubbio l'impalcatura della legge fondamentale della Costituzione tedesca, che ci obbliga, nella quale ci auto-obblighiamo a accogliere le persone che hanno il diritto ad stare da noi per ragioni di asili, no? Dunque, allora, intanto, io dirti che sì. Siccome me il tempo è, perché io speravo di averti prima, il tempo è tiranno, noi abbiamo dato questi elementi per consentire ai nostri ascoltatori di capire meglio, comunque vedrete che sarà la vicenda sulla cui filo rosso si sviluppa tutto il dibattito politico tedesco ed europeo nei prossimi mesi. Intanto continuate su Radio 24, appuntamento con me Alessandro Mina domani alle 8:20 per Attenti a noi due.